GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Frodi, super bonus, quasi 4 milioni di crediti d'imposta fittizi scoperti a Trieste, denunciati 13 imprenditori. Diventa una class action lo scontro tra Danieli e i firmatari della petizione contro la mega acciaieria di Marano. Due arresti in flagranza per traffico di droga in manette un cittadino albanese e il figlio italiano della compagna. Insulti e minacce agli agenti della volante di Udine, fermati due giovani ubriachi già noti alle forze dell'ordine. Telefono amico, disagio in crescita anche in regione, lo testimoniano le chiamate al centralino di Udine. Il Friuli Venezia Giulia in Svezia e Danimarca, le nazionali di sci che si allenano qui come testimonial del turismo. 12:31 minuti, buongiorno da Lara Zani e Rita Micoli. In apertura, le indagini della Guardia di Finanza di Trieste che ha portato alla luce una maxi frode sui bonus edilizi. Dall'acquisto di 500.000 euro di crediti d'imposta di una ditta di termoidraulica con sede a Trieste al sequestro di crediti fittizi per quasi 4 milioni di euro, l'operazione della Guardia di Finanza di Trieste ha impedito la monetizzazione di questi crediti maturati nel 2021 con il cosiddetto bonus facciate coniugata con la richiesta della cessione a terzi. Il titolare della ditta triestina, secondo le indagini, è coinvolto sia nella cessione dei crediti che nel loro successivo reimpiego, che avveniva anche attraverso canali esteri, in particolare dell'Est Europa. I finanzieri sono arrivati a scoprire che per beneficiare illecitamente dei bonus edilizi connessi alla cessione dei crediti maturati, una società edile ubicata fuori regione ha potuto cumulare un rilevante importo nominale di crediti d'imposta fittizi, 3 milioni 750 mila euro, che attraverso operazioni di cessione a terzi sono stati alla fine monetizzati presso Poste Italiane. Le indagini, ancora in corso, sono partiti appunto dalla ditta di termoidraulica e dall'acquisto di un credito d'imposta di 500.000 di euro ceduto dalla società edile che lo aveva fraudolentemente originato. I reati configurati nei confronti dell'impresario Giuliano e di altri 12 soggetti coinvolti residenti in Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Calabria sono riconducibili alla truffa aggravata ai danni dello Stato, all'autoriciclaggio e al reimpiego dei proventi illeciti indebitamente percepiti. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Nuova puntata della causa civile per diffamazione intentata dalla Danieli Di Buttrio contro uno degli attivisti che aveva promosso la raccolta di firme per dire no all'ipotesi di costruzione di una mega acciaieria nella laguna di Marano. È fissata per il 23 aprile l'udienza al TAR del Friuli Venezia Giulia in cui si deciderà se sarà o meno accordato alla Danieli accesso agli atti per ottenere l'elenco dei 21.974 firmatari della petizione contro l'acciaieria a San Giorgio di Nogaro. Intanto però c'è un colpo di scena, una class action, potenzialmente milionaria, contro la stessa Danieli, proposta dall'avvocato Carlo Monai, che sarà presente all'udienza. Monai difende Marino Visentini, attivista ambientalista citato nel ricorso, ma anche il consigliere regionale Furio Onsel, tra i firmatari, e Paolo De Toni, tra i promotori della petizione e leader dei comitati del coordinamento No Acciaieria. Questi ultimi due hanno fatto richiesta di essere considerati anch'essi controinteressati nel procedimento. De Toni ha ricevuto dai legali di Danieli una richiesta civile di risarcimento danni per alcuni post considerati diffamatori, 50.000 euro per il danno patito da Benedetti, 50.000 per la Danieli, da devolvere eventualmente in beneficenza. La strategia di Monai e di alcuni membri dei comitati che abbiamo incontrato è quella di passare al contrattacco proponendo che la causa venga spostata al Tribunale delle Imprese di Trieste, competente sulle class action. La richiesta di 20.000 euro di risarcimento per ognuno dei firmatari della petizione sarebbe giustificata dall'effetto limitativo dei diritti politici del cittadino, conseguente alla minaccia di querele o cause civili. Se tutti aderissero alla class action, l'importo salirebbe ad oltre 439 milioni di euro. Il tema, secondo l'avvocato Monai, è quello della tutela della libertà di pensiero e di critica in una democrazia che oggi più che mai necessita di affermare questo principio. Danieli, da noi contattata, non ha per il momento commentato la vicenda. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. La polizia di Stato di Trieste ha arrestato un cittadino albanese di 44 anni e un italiano di 21, figlio della compagna del primo, entrambi domiciliati a Trieste, per il reato di traffico di sostanze stupefacenti. Le case dei due sono state perquisite. Nell'abitazione del cittadino straniero sono stati trovati quasi 700 grammi di cocaina. A casa dell'altro gli agenti hanno trovato una cassaforte di cui il giovane non conosceva la combinazione. Aperta poi dai vigili del fuoco, la cassaforte conteneva altri 100 grammi di cocaina, un etto di hashish, 240 pastiglie di ecstasy e oltre 2 etti di un'altra sostanza ancora da identificare, oltre a 3.400 euro in contanti. I due sono stati arrestati in flagranza di reato. Avevano già bevuto parecchio e si comportavano in modo molesto con il gestore del bar annesso all'hotel Ramandolo di Via Forni di Sotto a Udine, che si era rifiutato di servire altre bevande e con i clienti. È stata così allertata la polizia. I due giovani, 21 e 23 anni, già noti alle forze dell'ordine, hanno manifestato un atteggiamento riottoso insultando gli agenti e cercando anche lo scontro fisico con uno dei due poliziotti. Trattenuto dagli altri agenti, in sua difesa è intervenuto l'amico che cercava di frapporsi. I due, in un crescendo di minacce, sono stati portati in questura e arrestati per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e multati per ubriachezza molesta. Sono stati rimessi in libertà in attesa del processo. È stata ritrovata dalla madre in stazione a Pordenone questa mattina la 15enne di Porcia, che mercoledì non aveva fatto rientro a casa dalla scuola e non aveva più dato notizie di sé. La ragazzina sta bene, non sono state rese note le cause dell'allontanamento. Si tiene il 28 maggio la prima prova scritta del test di medicina. Quest'anno si potranno provare 2 appelli e il test sarà cartaceo e non più digitale. All'Università di Trieste per la prima volta viene offerta la possibilità di partecipare a un corso preparatorio e gratuito in vista del test. Nozioni di biologia, chimica, fisica, matematica e ragionamento logico, ma soprattutto consigli utili per la gestione dei tempi del test. L'Università di Trieste lancia il primo corso gratuito per gli studenti in preparazione al test di ammissione a medicina. 350 i posti disponibili, iscrizioni aperte sul portale dell'Ateneo dal lunedì 22 aprile. Il corso si svolgerà su 2 giornate, il 7 e il 10 maggio. Lucio Torelli, delegato all'orientamento. Perché la decisione di fare dei corsi preparatori al test di medicina? I ragazzi non erano adeguatamente preparati? Ma direi che i ragazzi in genere sono molto motivati e preparati, però è l'approccio al quiz che cambia, quindi saper gestire le tempistiche, le domande dubbie. Allora questo corso serve in particolare per rivedere alcuni elementi fondamentali delle singole materie, ma soprattutto per capire com'è l'approccio a un quiz di questo tipo. Perché è necessario mantenere il numero chiuso a medicina? Ma questa è l'idea che abbiamo come conferenza dei rettori, come CRUI, perché è importante poter garantire in questi corsi di studio un'adeguata formazione attraverso i tirocini. Gli studenti hanno da fare più di 1000 ore di tirocini nei 6 anni, è chiaro che il numero programmato per ogni singolo ateneo permette dei tirocini reali sul campo che possono diventare veramente, che diventano dei momenti importanti di formazione. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Metà delle truffe agli anziani va a buon fine e meno della metà dei truffati sporge denuncia. Sono le percentuali poco incoraggianti che ANAP, l'Associazione degli Artigiani in Pensione, ha elaborato attraverso un'indagine che a livello nazionale ha coinvolto quasi 10.000 over 65 nel quadro della campagna Più Sicuri Insieme, lanciata anche in Friuli Venezia Giulia lo scorso anno e realizzata in collaborazione con Ministero dell'Interno e contributo di Polizia, Carabinieri e Finanza. Dati perfettamente sovrapponibili alla condizione che registriamo in Friuli Venezia Giulia, ha commentato il presidente regionale di ANAP Pierino Chiandussi, che rileva come ormai la percentuale più alta di frodi avviene attraverso internet, che anche gli over 65 frequentano sempre di più. Sarebbe opportuno per l'ANAP rendere però più praticabile l'iter per la denuncia. Disagio sociale in aumento, soprattutto quello psicologico, a testimoniarlo anche in Friuli Venezia Giulia, i dati di Telefono Amico. Sono quasi 115.000 le richieste d'aiuto ricevute da Telefono Amico in Italia nel 2023, oltre 300 al giorno. In crescita soprattutto il servizio di ascolto via WhatsApp, più il 14% rispetto al 2022, e quello via mail, più 10%. Sebbene il servizio di ascolto telefonico resti il più usato, con oltre 100.000 chiamate nell'ultimo anno, numeri che testimoniano un continuo aumento del malessere psicologico, ma anche una maggiore propensione a riconoscerlo e a chiedere velocemente aiuto. In Friuli Venezia Giulia è attivo un solo centro telefono amico Italia a Udine, che è raggiungibile attraverso il numero 02 23 27 23 27 e risponde a 365 giorni all'anno dalle 10 alle 24. Elisa Perassin, telefono amico Udine. Quando una persona sente il bisogno di chiamare telefono amico, sicuramente ha un disagio emotivo che può essere di varia natura, quindi dalla solitudine alla depressione, al fatto di poter colloquiare con una persona senza essere giudicata e quindi il poter dire delle cose che effettivamente magari ad un amico o ad un familiare risultano pesanti da dire. E qual è la fascia d'età più diffusa? Dai 46 anni in su. Negli ultimi periodi, soprattutto negli ultimi anni, si è abbassato molto la fascia di chi soprattutto si rivolge a WhatsApp amico, e quindi gli adolescenti preferiscono questa modalità piuttosto che la telefonata. Quanto sono i volontari qui a Udine? Allora, i volontari a Udine siamo 9. In realtà è un piccolo centro, quello di Udine, che però è l'unico in Friuli Venezia Giulia. Che formazione hanno questi volontari? Il corso di formazione dura diversi mesi, quindi c'è comunque una parte teorica in cui vengono dati gli strumenti effettivamente per poi poter rispondere adeguatamente al telefono. Ci insegna, diciamo, ad avere un ascolto attivo. Quindi la parte di ascolto deve essere preponderante, che posso anche dire che è quello che poi effettivamente le persone che chiamano è quello che cercano. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Ed erano solo una cinquantina i giovani che si sono radunati questa mattina a Trieste per il corteo dei Fridays for Future. I giovani di Fridays for Future tornano in piazza per la giustizia climatica e sociale. Vogliono riprendersi il futuro e agire per il benessere collettivo. A protestare a Trieste però sono in pochi, una cinquantina, supportati da diverse associazioni e movimenti ambientalisti e non, dal WWF e la Sissa ad esponenti del mondo della politica. Protestano per fermare nuovi progetti fossili, come il potenziamento dell'oleodotto transalpino Tal Siot, e definendo l'idea dell'ovovia a Trieste inutile e troppo impattante. I giovani hanno chiesto anche un cessate il fuoco immediato in Palestina, protestando contro gli interessi delle lobby fossili degli stati responsabili di guerre. Pietro Prizzi. Ci preoccupa molto, qua ogni giorno sta scoppiando una guerra, si sta parlando di spostare risorse proprio dall'ambiente alle spese militari, questo non ci va affatto bene. A supportare i Fridays for Future c'era anche Laura Zorzini, 28 anni, di Ribellione Animale, che per la sua protesta a Pasqua nella chiesa di Sant'Antonio, da lei definita atto di disobbedienza civile non violenta, e in attesa del verdetto del giudice che entro 30 giorni deciderà se accogliere la richiesta del PM di rigettare la misura di sorveglianza speciale chiesta dalla questura. Questa è chiaramente pura repressione del dissenso, si tratta di un procedimento politico. Ci preoccupa che il governo, invece di ascoltare le nostre istanze, si stia impegnando più a reprimere le voci che mettono in luce la connivenza tra lo Stato e da una parte le lobby della carne e dall'altra le lobby dell'industria fossile. Trieste, Vaciucchi, GR, Friuli Venezia Giulia. E diamo ora uno sguardo al tempo. Cielo poco nuvoloso su pianura e costa, nuvoloso in montagna. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste Gorizia 13 gradi, Udine Pordenone 12 gradi e mezzo, Tolmezzo 7 gradi e mezzo, Forni di Sopra e Tarvisio 5 gradi, Piancavallo 3 gradi, Sappada 1 grado e mezzo, Monte Zoncolà meno 1 grado, sul Monte Lussari meno 2 gradi e mezzo, a Lignano 15 gradi e a Grado 12 gradi e mezzo. E ora le previsioni del tempo con Livio Stefanuto dell'ARPA. Ancora un fine settimana rinfida la variabilità, l'arrivo di questa massa di aria fredda permane e mantiene un po' di instabilità nel corso della giornata, quindi cielo variabile sia sabato che domenica, con la possibilità nel corso del pomeriggio in particolare di qualche locale debole precipitazione o qualche locale rovescio o temporale, forse più probabile verso il mattino sulle zone di costa e poi invece nel corso della giornata sulle zone più interne. Le temperature rimangono decisamente sotto media, con valori massimi attorno ai 15-16 gradi in pianura e sulla costa, temperature minime che in pianura saranno di poco sopra lo zero. Sono temperature abbastanza anomale, abbiamo parecchi gradi sotto la norma del periodo, ma anche è stato significativo l'irruenza con cui è arrivata questa massa d'aria fredda nel corso della giornata di martedì, con un abbassamento di 15 gradi nel giro di 3-4 ore e con raffiche di vento da nord attorno ai 100 km all'ora in più, che sono valori decisamente significativi. Rinnovato assesto al REG nel Consiglio di Amministrazione di Livenza Tagliamento Acque, approvato il bilancio d'esercizio 2023 con un valore della produzione di oltre 52 milioni in crescita. Gli investimenti ammontano nell'anno a oltre 33 milioni di euro sulle infrastrutture del territorio, in particolare per il potenziamento delle reti acquedottistiche, per la ricerca di perdite occulte sugli impianti di depurazione e sulla fognatura. Indaga per la prima volta il rapporto fra padre David Maria Turoldo e Pierpaolo Pasolini, il libro Turoldo e Pasolini, due anime friulane, che il Centro Studi Padre Turoldo di Coderno di Sedegliano e il Centro Studi Pasolini di Casarsa presentano nella sala consiliare del Comune di Casarsa alle 17.30. Il volume è costituito da una raccolta di saggi, fra i quali quello di Raffaella Beano, ricercatrice e direttrice del Comitato Scientifico del Centro Studi Padre Turoldo, che ci ha delineato il rapporto fra i due grandi intellettuali del Novecento. Esattamente, non abbiamo potuto trovare il filo di questo, ma c'è un momento che è altamente significativo, la presentazione del film Il Vangelo secondo Matteo che Turoldo fa a Milano. Siamo proprio quest'anno nella ricorrenza del 50° anniversario e per questo intervento Turoldo naturalmente si attira anche un po' il rimprovero da parte del suo padre priore. Con una serie di saggi si ricostruisce il loro rapporto. Cosa emerge? Emerge che sono veramente due anime friulane, cioè le due madri hanno impresso in loro questa attenzione alla terra, alle proprie radici e anche come un grembo materno questa parte musicale che fa da sottofondo al Friuli e che si rintraccia nelle loro liriche, analizzate in maniera veramente interessantissima dal musicista Domenico Clapasson. C'è qualcos'altro che magari ci tiene a sottolineare? Forse alcuni inediti che sono conservati all'interno e la riflessione che Turoldo fa su questa grande sete di infinito da parte di Pasolini che lui rintraccia. Era il motivo per cui volevamo capire come mai avesse così tanto interesse per il poeta conterraneo, il motivo che lo spinse a voler essere presente. Lui sottolineava sempre unico sacerdote che ebbe veramente la forza, il coraggio di intervenire durante i funerali a Casarsa, in quella poi lettera, chiamiamola così, che è l'intervento dedicato alla madre di Pierpaolo Pasolini. Alcune presentazioni di libri al Trgovski Dom di Gorizia, la libreria Volta Pagina incontra il professor Hans Kitzmüller per parlare dei suoi libri, Gorizia austriaca, pagine ottocentesche e lontano da Vienna, alle 18. A Trieste, nella sede della Lega Nazionale in via Donota 2, presentazione del libro Bravi Italiani, il Regio Esercito contro l'Olocausto, alle 17.30. A Tolmezzo, Carnia, corse, ricordi e racconti, ripercorre oltre 50 anni di automobilismo in Carnia con più di 500 piloti provenienti da tutta la regione che hanno corso con i colori del sodalizio al Teatro Candoni alle 19. Friuli Venezia Giulia, Viaggio nella terra dell'oro è il titolo del volume fotografico del fotogiornalista Luigi Vitale, che sarà presentato alle 18 nell'abbazia di Rosazzo per la rassegna I colloqui dell'abbazia e il viaggio della carta geografica di Livio Felluga. A presentare la riproposizione del libro in versione ampliata ci sarà lo scrittore Angelo Floramo. A Udine, alla Libreria Moderna alle 18, Giuseppe Quaranta presenta La sindrome di Rebenson, finalista al Premio Calvino 2023. Alla Libreria Ubic di Trieste, Le fate tra illusioni e disincanto, l'anima femminile e la poesia della natura di Carla Lomi alle 18. Per la rassegna Libri in festa, Ronchi dei Legionari, appuntamento con Silvia Cinelli, autrice dell'Elisir dei Sogni, la saga dei Campari, alle 18.30 al Palatin, alle 20.30, lezione di Giorgio Fontana sul tema Lo sapevi K, riscoprendo Kafka. Le incredibili avventure di Ivan in Friuli Venezia Giulia, Valli del Natisone e Doberdò è il titolo del quarto albo illustrato di Turismo a Fumetti, progetto PAF di Pordenone finanziato dalla Regione. Le tavole tratte dall'ultimo albo di Turismo a Fumetti, insieme a una selezione di immagini dai precedenti volumi dedicati ad Aquileia, Polcenigo e Spilimbergo, compongono la mostra che sarà inaugurata alle 17.30. Per dialoghi a scuola, il polo liceale di Gorizia ha ospitato in Abili alla Morte lezione e spettacolo di Giacomo Pedini, direttore artistico di Mittelfest. Ci si è interrogati su chi fa la storia, da dove partono le azioni significative che determinano gli eventi. Il direttore artistico e presidente di Cultura Globale, Renzo Furlano, ha spiegato il perché di questi dialoghi a scuola. Dialoghi a scuola è un progetto di Cultura Globale che ormai ha più di 15 anni, che è partito con Cornos Libri. Si tratta di iniziative itineranti per diffondere la cultura nelle sue diverse interpretazioni, con il coinvolgimento delle scuole, con particolare attenzione ai temi di attualità del sociale. Si rivolge e coinvolge migliaia di studenti di ogni ordine e grado della regione, in maniera specifica con il polo liceale di Gorizia, che ormai da oltre 10 anni che c'è, i 15 eventi negli istituti e i 5 eventi esterni gestiti dai ragazzi negli incontri con autori nazionali. Dopo vengono acquistati i libri degli autori, vengono letti da parte dei ragazzi e appunto poi c'è la presentazione dell'autore e del libro. Festival Dialoghi da quest'anno ruota intorno a dialoghi a scuola. Tra questi 20 presentazioni, incontri, momenti teatrali ci sono 3 eventi realizzati in collaborazione con il Mittelfest. Si parte da Con Inabili alla Morte, una lezione e spettacolo di Giacomo Pedini, direttore del Mittelfest di Cividale, dove ci si interroga su chi fa la storia e da dove partono le azioni significative che determinano la storia stessa. E questo trittico si conclude venerdì 31 maggio con un incontro di restituzione in cui i ragazzi portano le loro testimonianze sulla tematica e sugli spettacoli che sono stati discussi. Nell'auditorium della Parrocchia del Sacro Cuore a Pordenone, tavola rotonda dalla gratuità alla gratitudine nei testi sacri delle religioni, le prospettive cristiano-islamiche e oltre. Relatori sono il biblista Don Federico Zanetti e l'imam Kamel Layaki, che opera nelle comunità islamiche del Veneto, alle 20.30. Dopo l'inaugurazione della mostra Panzano bombardata al Museo della Cantieristica, il Consorzio Culturale del Monfalconese organizza la conferenza Patrimoni in conflitto, realizzata nell'ambito del progetto Fa che non suoni la sirena, che racconta gli eventi della Seconda Guerra Mondiale, i bombardamenti, le vittime. L'evento inizierà alle 14.30, alle 18.30, inaugurazione della mostra 20 aprile 44 alla luce del giorno all'Europalas. Il Friuli Venezia Giulia si promuove nei paesi del nord con workshop per i tour operator a Copenaghen e Stoccolma. Nella capitale svedese Promoturismo FVG, grazie all'accordo con la Federazione Sport Invernali Scandinava, che da quest'inverno ha scelto lo Zonkolan come base per gli allenamenti della nazionale femminile, punta a far conoscere la nostra regione anche con le campionesse svedesi dello sci. La Svezia e il Friuli Venezia Giulia ora sono più vicine per far conoscere ai futuri ospiti scandinavi le potenzialità turistiche della nostra regione, dalle montagne innevate alla costa sabbiosa di Grado Lignano. Testimonial saranno le atlete della nazionale femminile svedese di sci alpino, che da quest'inverno hanno scelto lo Zonkolan come quartier generale degli allenamenti fino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina del 2026. Una partnership che ieri sera a Stoccolma ha gettato le basi di un rapporto tra Promoturismo FVG ed una cinquantina di tour operator, interessati a proporre alla propria clientela la nostra regione, una meta ancora tutta da scoprire. Antonella Russo, responsabile promotion di Promoturismo FVG. Questo accordo con la Federazione Svedese dello Sci per noi è importante, per presentarci qui in Svezia con delle testimonial che sono state questa sera per i nostri ospiti, veramente una voce fondamentale per convincerli a venire a visitare il Friuli Venezia Giulia. Quello del turismo svedese è un comparto con buone capacità di spesa ed organizzato tramite i tour operator, che proporranno pacchetti mirati per l'attività all'aria aperta e il divertimento. Jenny Rosenius, tour operator svedese. Ultimamente abbiamo scoperto Friuli Venezia Giulia, che ha una grande potenzialità. E siamo felici di venire in questa parte d'Italia che ancora è molto sconosciuta da noi. Gli appassionati svedesi degli sport invernali potranno per i prossimi 2 anni sia osservare le atlete della nazionale di sci alpino sulle piste dello Zoccolan, sia provare a scendere lungo i tracciati del compresorio carnico. Parola di Sara Hector, campionessa olimpica di slalom gigante ai Giochi di Pechino del 2022. We chose Mont Saint-Colin because we have... Abbiamo scelto lo Zoccolan perché abbiamo la possibilità di allenarci bene, le piste sono preparate perfettamente ed è bello perché siamo vicini al mare. A me piace, mi fa sentire a casa, la vostra regione è veramente attraente. Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Prima di chiudere, una notizia in vista della giornata di preghiera per le vocazioni. L'arcidiocesi di Udine prevede una sorta di notte bianca al seminario di Castellerio di Pagnacco. Da questa sera fino alle 7:30 di domattina chiunque potrà recarsi nel seminario e pregare in forma comunitaria per le vocazioni al sacerdozio. È tutto per questa edizione del giornale radio. La parte tecnica Mauro Cumine, Walter Vidonis. In segreteria ha collaborato Valentina Veneruso. Dalla Razzani e Rita Micoli, grazie per l'ascolto, l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.